vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 14 marzo, il sole in regione è sorto alle 6:23 e tramonterà alle 18:11. La luna è crescente e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Rita Micoli. La pandemia da Covid ha reso la vita difficile anche all'agricoltura regionale, ma l'ERSA, ente per lo sviluppo rurale, sta elaborando dati che mostrano una sostanziale tenuta del settore primario. I numeri negativi, e comunque ce ne sono, andranno analizzati meglio per individuare le linee di una strategia di rilancio. In sommario poi il corsivo di Enos Costantini con la ricetta di una nuova rivoluzione agricola. Nella rubrica delle normative parleremo di vitivinicoltura sostenibile, dalle vigne alla bottiglia, come sta già facendo il consorzio Prosecco DOC. In giardino poi alla scoperta del melograno, salutare e ricco di antiossidanti, mentre la patata dolce, coltura ecologica, è la protagonista della tesi di laurea in agraria che oggi ci presenta il suo autore. Per la rubrica dedicata al cambiamento climatico parleremo della sua relazione con lo spreco di cibo. Andamento dei mercati, previsioni meteo per la settimana e proverbio friulano chiudono la puntata. L'agricoltura regionale regge sostanzialmente l'impatto del virus, bilancia commerciale in calo ma positiva per 120 milioni. Francesca Santi del Servizio di Statistica Agraria dell'ERSA traccia un quadro dell'andamento 2020 in cui non possono non balzare subito all'occhio alcune debolezze. Sicuramente uno degli aspetti su cui la pandemia ha influito di più riguarda quello delle imprese agricole e del numero degli occupati. Abbiamo visto delle flessioni, in particolare sulle ditte individuali, che sono la maggior parte delle ditte agricole che operano nel comparto regionale. C'è stata poi una inevitabile contrazione nelle importazioni, pari a un meno 5% circa, ma anche alle esportazioni. Tuttavia, nei primi tre trimestri del 2020 il comparto ha retto bene, con dei dati che per quanto riguarda la Germania, la Francia e il Regno Unito hanno registrato anche dei segni positivi. Per quanto riguarda invece gli Stati Uniti, per quanto riguarda i prodotti alimentari, in particolare si vede una flessione importante del meno 26%, che però dall'altro lato ha nei prodotti agricoli un importante incremento pari al più 65%. Rispetto agli altri settori produttivi e anche rispetto al panorama nazionale, che dati sono? Per quel che riguarda l'agricoltura, il calo del valore aggiunto registrato nella nostra regione è più contenuto rispetto a quello di altri settori, e questo è un dato sicuramente positivo, ed è maggiormente positivo se si pensa che la flessione subita dal comparto agricolo nazionale è pari, secondo le previsioni, al meno 2,9%. Invece per la regione stiamo parlando di 0,6%. Francesca Santi, addentriamoci allora nelle diverse produzioni agricole. Per quel che riguarda i cereali, potremmo parlare del mais, che ha visto un calo importante delle superfici investite, circa 21% in meno, e una resa che però è aumentata, come è aumentato il prezzo. Poi invece per quanto riguarda le oleaginose potremmo parlare invece della coltivazione del girasole, che ha visto un interessante incremento del fatturato, più 27%, che è dovuto sia da un aumento del prezzo importante, parliamo del 28%, sia ad un aumento della resa, e tutto questo, quindi un fatturato in aumento pur di fronte a un calo delle superfici coltivate. Tra le orticole si sono registrati crolli verticali anche su prodotti pregiati e tipici come gli asparagi, meno 28%. Se pensiamo che le superfici coltivate a patata sono calate del 49%, sicuramente è un dato su cui riflettere. La bandiera del Friuli Venezia Giulia, il vitivinicolo, com'è andato? Quest'anno c'è stato anche un andamento climatico che è stato favorevole, e si è aggiunta anche un elemento ulteriore, che è stata la riduzione volontaria delle uve, quindi si è puntata a una minor quantità in favore di una maggior qualità. Frutta, segni di una vera e propria esplosione. parliamo del più 78% per il melo, kiwi 50%, quindi queste sono state determinate anche in questo caso da un andamento climatico favorevole e anche dal fatto che le popolazioni di cimice asiatica sono diminuite, quindi ci sono stati meno danni. Carne e latte, la zootecnia mostra un doppio volto. Inevitabilmente la pandemia, con tutte le chiusure che ha portato, pensiamo una su tutte, la ristorazione ha portato alla filiera della carne ad essere colpita. Si è aggiunta anche un ulteriore elemento, quello del blocco delle esportazioni europee di bovini vivi e di carni. Però abbiamo dall'altro lato la filiera lattiero-casearia, che invece ha visto una produzione di latte, una produzione di formaggi e citerei un dato molto interessante, che è quella del Montasio DOP. Pensiamo che a settembre sono state sfiorate le 700.000 forme per il Montasio DOP, registrando un più 8% rispetto allo stesso dato dell'anno scorso. Agricoltura empirica e scienza agronomica insieme per una nuova rivoluzione nelle campagne nei tempi difficili dettati dalla pandemia, nel corsivo di Enos Costantini. Tra 700 e 800 avvenne una rivoluzione agricola. Non fu un risultato scientifico, bensì il frutto di un empirismo maturatosi nei secoli. Nella rotazione furono introdotte le foraggere, in particolare le leguminose, che fra l'altro sostituirono l'improduttivo maggese. Le leguminose fertilizzano il terreno e aumentano le proteine per il bestiame. Mantenere più bestiame significa più letame e ciò innesca un circolo virtuoso che porta a maggior produzione di cereali, quindi più pane e più latte per tutti. L'opulenza casearia della Lombardia ebbe come base il trifoglio ladino. In Friuli fu l'erba medica a fare da starter, migliorando i magri terreni dell'alta pianura e consentendo di allevare più bestiame, più produttivo, quale la vacca Simmental. E furono subito le latterie sociali, una per campanile e anche due. Un'agricoltura autorigenerante, tutta ecocompatibile, senza input esterni, senza immissioni di energia che non fosse quella solare. Una rivoluzione alimentare, più formaggio e meno pellagra per tutti. La rivoluzione agricola del secondo dopoguerra fu tutta un'altra cosa. Scienza applicata, camici bianchi, genetisti, chimici, ingegneri meccanici, premi Nobel, Rockefeller Foundation. E l'industria si buttò in quell'immenso giacimento di profitti rappresentato dall'agricoltura. Risultati straordinari, produzioni incredibili e diminuzione drastica dei contadini. Lavoro ritenuto di poca immagine. Meccanizzazione a oltranza con cimi chimici di sintesi, pesticidi e acqua di irrigazione per sostenere la genetica. Ogni pote, avrebbe commentato mia nonna, per non dire che, avessero avuto tutto ciò ai suoi tempi quelli di Surisins, di Domanins e di Browlins, avrebbero fatto altro che l'ettaro lanciato. E tutto sta nelle energie fossili, poi. Sta tutto lì. Non possono esistere urea e pompe e piretroidi e neonicotinoidi senza petrolio e senza metano. Ogni pote, avrebbe ripetuto mia nonna, nell'attuale temperie planetaria, in questo frangente storico, noi dovremmo prendere il buono dell'agricoltura empirica, che di buono ne ha tanto, e combinarlo con la parte meno distruttiva dell'attuale scienza agronomica. Questa conclusione non è salomonica, è obbligata. Si parla tanto di sostenibilità, ma tradurre in pratica i buoni propositi non è cosa da poco. In campo agricolo, il settore vitivinicolo prova a fare da apripista. Ce ne parla Marco Malison, responsabile tecnico-economico di Coldiretti Friuli Venezia Giulia. Probabilmente i nostri ascoltatori hanno già sentito parlare dell'Agenda 2030 adottata dall'ONU o del Green Deal, della strategia Farm to Fork lanciati dalla Commissione Europea. Sono tutte iniziative internazionali che cercano di fissare principi e individuare soluzioni per una sostenibilità ambientale, economica e sociale. Si tratta ora di agire a livello locale e all'interno del comparto agricolo si registrano innumerevoli iniziative spontanee, individuali e anche collettive. Alcune però stanno assumendo anche un'importante valenza istituzionale. Per esempio nel comparto vitivinicolo. Vista l'importanza della viticoltura in Italia, già nel 2017 i Ministeri dell'Ambiente e delle Politiche Agricole riunirono un tavolo di lavoro interministeriale per armonizzare due sistemi di certificazione agroambientale già applicati al vigneto, il Sistema di Qualità Nazionale sulla Produzione Integrata, noto come SQNPI, e il Progetto per la Sostenibilità nella Vitivinicoltura in Italia, noto anche con la sigla VIVA. E con la legge 77 del 2020 è stato anche istituito un sistema unitario di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola, sistema che tuttavia attende ancora alcuni provvedimenti attuativi. Nel frattempo però c'è già qualcuno che si sta muovendo. E recentemente il consorzio DOC Prosecco ha avviato un ambizioso percorso che punta alla certificazione di denominazione sostenibile, secondo lo standard Equalitas. Sono chiamati a partecipare tanto i produttori delle uve quanto i vinificatori e gli imbottigliatori, i quali ognuno per la parte di propria competenza dovranno applicare specifici protocolli viticoli enologici, fino anche un codice etico. Naturalmente tutto il progetto è edificato sulle fondamenta di una produzione agricola sostenibile, pertanto è necessario che un numero significativo di viticoltori, almeno il 60% della superficie della DOC, adotti in alternativa certificazioni bio o SQNPI. E qual è il riscontro da parte dei produttori? Ma sappiamo che in Friuli Venezia Giulia alcune cantine cooperative sono già orientate in tal senso e anche altri produttori ci stanno pensando. Sicuramente gli aiuti del PSR per le misure agroambientali e il biologico agevoleranno questo percorso, ma perché la cosa possa funzionare è assolutamente necessario fare in modo che il carico burocratico sulle imprese non aumenti. Raffaele Testolini, esperto e già docente di frutticoltura, ci fornisce notizie e suggerimenti sulla coltivazione del melograno, intorno a cui c'è rinnovato interesse. Il verde melograno dai bei vermigli fior, scriveva il Carducci nel pianto antico che tutti abbiamo recitato a scuola. La pianta, originaria di una vasta area che va dalla Turchia all'India alla Cina, è tanto bella e affascinante da entrare nelle culture religiose antiche e nella farmacopea di ogni tempo. Le proprietà salutistiche di questa pianta hanno risvegliato l'interesse dei consumatori di oggi, attirati dagli antiossidanti di cui sono ricchi i semi. Ci sono anche altri composti considerati un rimedio alle malattie più disparate, ma la Food and Drug Administration statunitense ha diffidato alcuni produttori di melograno dall'utilizzare claims salutistici non provati scientificamente. Risultato: la pubblicità, anima del commercio, ha avuto la meglio e la produzione del melograno è in grande espansione a livello mondiale. Un mio amico a Latina ha messo in collezione un centinaio di varietà delle oltre 1000 che si stima siano diffuse nel mondo. Un tripudio di colori. Mi sono entusiasmato anch'io per questa pianta meravigliosa e qualche anno fa, dopo aver letto la biografia di Abu Ali ibn Sin alias Avicenna, il principe dei medici e dei filosofi islamici che considerava il melograno un farmaco dalle grandi proprietà, ho messo a dimora nell'azienda agraria dell'Università di Udine una piccola collezione. Grande è stata la delusione nel vedere le piante nell'estate del 19 deperire senza un apparente motivo. Un'osservazione più attenta ha rivelato che i tronchi erano spaccati a causa di un ritorno di freddo primaverile. Il melograno non fa per noi, o almeno non fa per noi la coltivazione industriale. A onore del vero, nei cortili riparati dal freddo di molte aziende friulane, il melograno sta bene. Quindi possiamo piantarlo, ma ricordiamo che è sensibile al freddo. Le varietà sono tante. Personalmente considero interessante per il Friuli una varietà selezionata da un collega dell'Università di Catania che mi ha fatto avere alcune piante autorizzandomi a moltiplicarle per gli hobbisti friulani. La varietà si chiama Primo Sole ed è una selezione della vecchia e apprezzata varietà siciliana Denti di Cavallo. È piuttosto tardiva, tanto che il frutto a maturazione tende a spaccare. Il colore esterno è giallo con venature rosso-aranciate e quindi bello, ma non di quel colore rosso fuoco che molti vorrebbero vedere in giardino. Il seme è tenero e dolce. Casualmente è l'unica varietà che in collezione non ha avuto finora danni da freddo. Come si pota? Osservate dove produce e poi cercate di dare alla pianta una forma elegante. Per il resto, la pianta fa da sola. Se acquistate altre varietà nei vivai, attenti perché alcune varietà sono ornamentali e non fanno frutti. A me, una pianta da frutto che non fa frutti non piace. Mi perdoneranno gli amici giapponesi che tutte le primavere si commuovono di fronte ai ciliegi da fiore nella tradizionale festa dell'hanami. Conservo l'anima contadina dei miei nonni e per me gli alberi da frutto devono fare frutti. Per la serie delle tesi discusse all'Università di Udine, oggi è la volta di quella di Alex Bunello, dedicata alla patata dolce e al suo inserimento in orticoltura. Sono stati messi in prova 4 diversi genotipi, distinti per la colorazione dell'organo destinato a consumo, ovvero alla radice ingrossata. Inoltre, l'esperimento è volto a fornire un nuovo prodotto particolare nella filiera che abbia delle importanti caratteristiche nutrizionali e nutraceutiche, e per poter inserire questo specie in delle rotazioni che in orticoltura sono generalmente strette. A livello di risultati, tra i 4 genotipi ha spiccato la patata viola che con circa 23 tonnellate ettaro ha fatto riscontrare una resa che rispetto agli standard è piuttosto soddisfacente. Comunque, per fornire delle risposte diciamo più certe e concrete a chi volesse cimentarsi in queste coltivazioni, sono necessari ulteriori esperimenti nei prossimi anni, soprattutto perché c'è stato un periodo di eccessiva piovosità durante il ciclo di coltura. A livello ambientale, diciamo che la patata dolce può essere, secondo me, definita come una coltura ecologica. Infatti non necessita di particolari trattamenti contro i patogeni, in quanto solitamente ci si limita a una lotta preventiva che dà risultati molto buoni, e poi contro le malerbe non servono ulteriori interventi perché comunque è una specie competitiva, vista anche la grande copertura del terreno che ha quando supera diciamo le prime fasi del ciclo. A livello di opportunità economiche, la patata dolce può essere interessante perché appunto ha delle particolari caratteristiche nutrizionali e nutraceutiche ricercate da diversi consumatori. I prezzi di mercato sono piuttosto buoni, tra 1 e 2 euro al chilo, e volendo si possono anche evitare diciamo gli sprechi di materiale, in quanto la parte aerea, che generalmente viene trinciata, può essere utilizzata per fornire dell'alimentazione agli animali da reddito. Spreco alimentare e cambiamento climatico legati, in che modo ce lo spiega Silvia Stefanelli? Ogni anno circa un terzo del cibo commestibile è sprecato, con un costo enorme per l'economia globale e un enorme danno ambientale e climatico. Infatti lo spreco alimentare è responsabile di circa un po' più di 4 miliardi di tonnellate di gas serra. Ridurre le perdite e gli sprechi alimentari è quindi proprio fondamentale per affrontare la crisi climatica e la fame nel mondo. In Italia si sprecano circa 36 kg di cibo pro capite lungo la catena di produzione, distribuzione e consumo. Oggi parleremo in particolare dello spreco che avviene a monte della filiera, nella fase di produzione e prima distribuzione. In questa fase le cause dello spreco sono legate allo scarto di quei prodotti che per forma, volume, colore si scostano da standard e calibri imposti dai distributori. Per esempio carote con due zampe, arance sottotaglia, patate bitorzolute, albicocche puntinate, peperoni a seggiolino e così via. Sul mercato sono catalogati come brutti. In realtà sono solo frutta e ortaggi che si discostano da standard per volume e forma. Nella parte del mondo in cui viviamo, che ha abbondanza alimentare, sono sgraditi e scartati. Dietro questo enorme spreco ci sono l'impronta ecologica di milioni di ettari coltivati per niente, un grande consumo di acqua, impiego di energia, l'impatto dei trasporti e le emissioni delle discariche. Ma quali sono le cause di questo grave spreco a monte? Le normative europee e nazionali, gli standard dei supermercati e l'atteggiamento dei consumatori che selezionano prodotti esteticamente uniformi. Ma ora anche le catene di distribuzione si stanno ponendo il problema. Per esempio, in Italia il progetto Così per Natura di una catena di prodotti biologici vuole ridare valore non solo a forme irregolari e scalibrate di frutta e verdura, ma anche a sementi naturali autoctone, selezionate per la qualità, il gusto, la vitalità e la resilienza a clima e parassiti. L'idea è di supportare i piccoli e medio produttori che non hanno ancora la mentalità del calibro, perché chi coltiva nel piccolo ha degli sbocchi come spazi agricoli e mercati locali, dove la normativa europea sui calibri non è applicata. Il consiglio è: scegliete il gusto, la qualità, che spesso si accompagna anche all'agrobiodiversità come parametro, e non la bellezza e la perfezione dell'ortofrutta. Con Amos D'Antoni vediamo l'andamento dei mercati agricoli. Mercato debole con prezzi stazionari, eccetto la soia che ha continuato a salire venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 21,70 e 21,90 euro al quintale IVA esclusa, il frumento tra 22,20 e 22,50, l'orzo con peso specifico 60-63 tra 19,20 e 19,70 e la soia tra 53-53,30. Rispetto ad un anno fa il mais è aumentato di 5,50 euro e la soia di 17,80 euro quintale. Contrattazioni discrete all'ortofrutticolo di Udine con prezzi costanti. L'insalata gentile, la lattuga Trocadero e i cavoli vengono pagati da 1,20 euro il chilo IVA esclusa. Il radicchio rosso tondo da 0,80 a 1 euro. Quello di Treviso precoce tra 0,90 e 1,30. Le spinaci e la spinacina tra 1,30 e 1,50. Nel settore della pesca le condizioni meteo sono favorevoli, però causa la pandemia il mercato soffre nelle contrattazioni, anche se i prezzi sono stabili. Alla cooperativa pescatori San Vito di Marano Lagunare i branzini, suddivisi in piccoli, medi e grandi, sono quotati da 18 a 30 euro il chilo IVA esclusa, le ombrine e le sogliole da 7 a 24, le mazzancolle da 18 a 26, le seppie da 8 a 12, i calamari e i calamaretti da 23 a 28, le canocce da 5 a 13, le oreate da 4 a 11, i latterini da 10 a 12, le cappe da 11 a 15 e i folpi da 7 a 10. Da Legno Servizi di Tolmezzo rileviamo i prezzi del legno da ardere, che viene quotata da 6,20 a 6,60 euro al quintale. Rispetto al mese precedente il prezzo è salito di circa 40 centesimi. Infine nel settore degli avi cunicoli si segnalano mercati in salita con prezzi in rialzo. I polli a terra vengono pagati tra 0,97 e 0,99 euro il chilo IVA esclusa, i conigli oltre 2 kg e mezzo tra 2,03 e 2,09, le uova da allevamenti a terra oltre i 73 grammi a 16,80 centesimi il pezzo. Con il previsore dell'ARPA Osmer Arturo Puccillo, il meteo per la settimana entrante. Dopo un inizio di marzo abbastanza in linea con le medie stagionali, con qualche escursione verso il freddo, la circolazione atmosferica europea per la settimana entrante sarà nuovamente orientata da nord, portando masse di aria fredda in quota dal nord Europa verso le Alpi, le quali tuttavia ci proteggeranno dagli effetti più marcati. Dopo il fronte freddo di oggi affluiranno correnti settentrionali più fredde, che domani porteranno un po' di variabilità, con più sole sulla costa. Le temperature tenderanno a diminuire, congelate anche in pianura, mentre le massime supereranno anche se di poco i 10 gradi. Martedì il sole tenderà a prevalere, ma il vento si farà sentire maggiormente in quota e localmente anche nelle valli e in pianura, sempre da nord. Ancora gelate notturne e le massime, causa ventilazione, saliranno leggermente sui 15 gradi in pianura, più basse sulla costa. Mercoledì tornerà una certa variabilità, perché le correnti in quota trasporteranno un modesto fronte, con lieve calo delle temperature massime data la maggior presenza di nubi. Successivamente la situazione si fa più incerta. Lo scenario più probabile è una rotazione delle correnti a ovest-sud-ovest, con l'arrivo di aree più umida e rialzo delle temperature minime. Non è escluso che tale scenario porti anche precipitazioni, ma vi è grande incertezza al riguardo. Vi invitiamo quindi a seguire gli aggiornamenti quotidiani a cura di Osmer ARPA sulla RAI regionale, su internet, sulla telefonia mobile e sui vari social media. Termina qui la puntata, vogliamo lasciarvi con il proverbio friulano della settimana: tal entra e tali sci alla di fasi mars in ti, ovvero all'inizio e alla fine il mese di marzo si fa sentire in campo meteorologico. Coordinamento tecnico di Ugo Nicoletti, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino, Rita Micoli e tutta la redazione vi ringraziano per l'ascolto e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.